Con Jonah Nazzaro, curatore dell'allegato La guida pratica di rumore, dal titolo L'assoluto maestro Ennio Morricone, uscita per gennaio 2019, appunto della rivista Rumore. Jonah, ben trovato. Ben trovato a te, caro Federico, e ben trovato agli ascoltatori. Allora, cominciamo spiegando cos'è la guida pratica di rumore che esce allegato alla rivista. La guida pratica di rumore è un'iniziativa editoriale che caratterizza la rivista Rumore da molto tempo. Ogni 6 mesi, si allega una guida dedicata o a un movimento, a un genere o a un periodo musicale. E questa mia dedicata a Ennio Morricone, dal titolo L'assoluto Morricone, in omaggio al film L'assoluto naturale di Bolognini, è la prima guida di rumore monografica dedicata a un singolo autore. L'altra particolarità è che ovviamente Morricone, Ennio Morricone, non è un musicista rock, è un compositore contemporaneo italiano e quindi è un unicum, è una primizia in tutti i sensi nella tradizione delle guide di rumore. E come mai questa novità? Eravamo 6 mesi fa, l'anno scorso, avevamo fatto uscire insieme all'amico e collega Marco Pecorari una guida dedicata agli autori delle colonne sonore del cinema di genere e inevitabilmente, mentre lavoravamo a quella guida lì, il nome di Morricone spuntava da tutte le parti. Cioè si prendeva in considerazione un poliziesco e c'erano almeno 5 titoli di Morricone tra i quali scegliere. Si pensava c'era un western, un film erotico, un film politico, un film impegnato, un film d'autore e Morricone spuntava sempre da tutte le parti. Ovviamente comunque nella precedente guida non abbiamo potuto mettere più di un titolo di Morricone, però mi era rimasto il desiderio di dedicare un intero libro, un'intera guida a Morricone, per cui d'accordo con il direttore Rossano Lovele, cui ho fatto la proposta, perché poi alla fine sono 100 i titoli che finiscono in ogni guida di rumore, la domanda è stata: ma ci stanno 100 titoli di Morricone? La risposta ovviamente è stata sì. Anzi, il problema al contrario è stato limitarsi solo a 100 titoli colti nella immensa produzione di Ennio Morricone. Quindi sì. In questa sterminata produzione, come ti sei mosso? Beh, prima di tutto mi sono lasciato guidare dal principio di piacere. Ci ho lavorato, adesso senza esagerare, quasi un anno, nel senso che prima ho stilato una lista dei primi titoli di Morricone che mi venivano in mente, poi ho tentato di capire quali erano i titoli che in qualche modo si auto-elidevano. Poi ovviamente c'è il fatto che Morricone è un autore, è molto più che un compositore, è molto più che un autore di musica da film, è molto di più che un musicista. Morricone è un continente sterminato. Per dire, c'è il Morricone arrangiatore di canzoni e autore di canzoni per Luigi Tenco, Mina, Gino Paoli, Gianni Meccia e chi più ne ha più ne metta. C'è il Morricone compositore sperimentale con il gruppo Improvvisazione Nuova Consonanza. C'è il Morricone dei film western. C'è il Morricone dei film di Elio Petri. C'è il Morricone, diciamo, rock dei The Feedback e dei film di Vittorio De Sisti. C'è il Morricone dei film con Tornatore, che è un intero capitolo tutto da esplorare e così via. E quindi Diciamo che mi sono trovato di fronte a una produzione sterminata e ovviamente c'è stata un po' la tentazione di mettere i dischi, quelli solo meno noti, più per iniziati, più per appassionati, però poi ovviamente Morricone non è solo quello, Morricone è la musica di Mission, la clamorosa, bellissima colonna sonora di Mission, ma è anche le improvvisazioni rock elettroniche di Spoglia di protesta uccidi. E quindi il tentativo è stato quello di trovare una mediazione tra queste innumerevoli anime che rispondono poi sempre solo al genio di Morricone. Come hai strutturato, come hai organizzato il libro? Il libro segue la strutturazione classica delle guide di rumore. Una prima parte sono i 50 dischi, diciamo, principali, e quindi i 50 dischi che vengono affrontati in una trattazione specifica. La seconda parte, intitolata Gli altri 50, si tratta ancora di 50 dischi, però che hanno, come dire, una trattazione più rapida. Significa fare una nota a piè di pagina di altri 50 titoli a quelli che sono stati ritenuti i dischi fondamentali. Ovviamente, come dicevo, la scelta è stata la cosa più impegnativa perché bisogna in qualche modo tenere presente che Morricone ha attraversato tutta la storia del cinema italiano e che lui oggi è la musica da film per eccellenza. Però questo sembra, anche se per molti sembrerebbe tantissimo, per lui è un po' limitativo perché se dedichiamo un'intera guida ai dischi di Ennio Morricone, perché le musiche da film di Ennio Morricone hanno tutte, ma proprio tutte, la dignità di opere a sé stanti. Si può prendere qualsiasi disco di Ennio Morricone, lo si ascolta e non c'è bisogno del film a supporto delle note, mentre le note che sono nate a supporto delle immagini possono vivere autonomamente. Questa è una cosa che non si può dire di nessun altro musicista da film, musicista per film, perché se si prendono per esempio anche dei maestri riconosciutissimi come John Williams, quel tipo di sonorità staccato dalle ambientazioni dei film, a meno che non si è appassionati di musica da film, raramente funziona da sola. Morricone in questo senso è riuscito in un'impresa che è assolutamente unica, cioè creare della musica che si lega indissolubilmente alle immagini dei film, ma che poi continua a vivere per conto suo. E oggi ci sono dei dischi di Morricone legati a dei film che, se non fossero per la musica di Morricone, probabilmente sarebbero dimenticati. Invece, numerosi gialli, numerosi polizieschi, persino dei film erotici come Sesso in confessionale, continuano a essere citati perché le musiche composte da Morricone sono ancora oggi a ascoltare e soprattutto sono ancora attualissime, modernissime. Se si scava nella produzione più oscura e di genere di Morricone, si vede che tanta di quella musica rock dalla vocazione sperimentale Morricone l'aveva già anticipata, il math rock, il post rock e così via. Morricone c'era arrivata lavorando sulle intuizioni della musica classica contemporanea, ma avendo anche lavorato nel mondo della musica commerciale, musica pop, sentiva quello che accadeva, aveva le orecchie puntate in direzione dei sintetizzatori, della musica elettronica e così via, e da grande visionario qual era, riusciva a mettere in comunicazione mondi musicali lontanissimi fra loro. Ed è questa la grande intuizione di Morricone, che il suo sperimentalismo è uno sperimentalismo di fondo, non è solo sperimentale quando suona con Evangelisti, con Egisto Macchi nella nuova consonanza, è sperimentale proprio nella sua vocazione di cercare soluzioni sempre nuove per delle idee musicali sempre nuove. E allora ricordiamo per la guida pratica di rumore allegata alla rivista l'assoluto maestro Ennio Morricone a cura di Giona Nazzaro. Giona, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te Federico e grazie agli ascoltatori per la pazienza. Grazie.